quando si fa retromarcia, quando si guarda verso l'alto, quando ci si curiosa un pochino nella nostra postura e nel riflesso in una vetrina, sono proprio sinonimo di tensione. Tutte noi vorremmo avere un bel collo lungo da cigno, alla Modigliani, ma non è così. Un esercizio che sicuramente ci aiuta, perché tutti questi sintomi sono legati proprio a quella tensione che per motivi fisici o motivi psicologici, come ricordava il dottore Spizzi, ci portano appunto ad accumulare tensione e poi quindi un accorciamento proprio delle articolazioni, della muscolatura, quindi uno schiacciamento maggiore delle articolazioni tra di loro, possono essere risolti con un esercizio di allungamento. Facciamo conto di essere come una lumachina raccolta nel guscio che si srotola e si vuole allungare e distendere sul piano d'appoggio. Se noi siamo seduti con la schiena appoggiata alla parete, aspetti che adesso noi proviamo. Sì. Si può fare in anche per gli ascoltatori che sono in macchina, o è pericoloso quello no, che lei anche ci sta in macchina, per dire? La differenza è che in macchina c'è appoggia testa, non c'è diciamo la parete che ha una continuità, ma immaginando appunto di avere appoggiato il collo e la nuca alla parete, cerchiamo proprio di srotolarci, di allungarci, distenderci in modo da avere il famoso collo da Modigliani, ma soprattutto per allungare la nostra muscolatura che è così in tensione rigida.